America 24 di Mario Platero. Buongiorno, benvenuti all'America 24 da New York, Mario Platero. Beh, oggi vorrei fare una trasmissione leggermente diversa rispetto a quelle del giorno per giorno, su cui cerchiamo di approfondire le notizie più hard news, e vorrei partire con una piccola sorpresa, perché ho con me ai microfoni di America 24 Enrico Brignano. Ecco la sorpresa. Roma non fa la stupida stasera. Roma non fa la stupida stasera. Dammi una mano a fare di desì. Scegli tutte le stelle più brillarelle che c'hai, e un friccico di luna tutto per noi. Beh, hai senti che quasi primavera, ma nel meglio grilli per far cri cri. Prestami il ponentino più malandrino che c'hai, Roma, reggimi il moccolo stasera. Bene, beh, devo dire, abbiamo insomma, accennato improvvisato. Però, cari ascoltatori, beh, per me è un onore, un privilegio. Abbiamo con noi ai microfoni di America 24 Enrico Brignano, grande interprete di Rugantino, di Roma non fa la stupida stasera, che ci racconta perché è qui, perché sta portando il Rugantino a New York. Enrico, prego. Questo spettacolo torna a New York dopo esattamente 50 anni. All'epoca venne con Aldo Fabrizi, venne con Nino Manfredi, quindi fu un evento straordinario, insomma, per tutti gli italo-americani che vivevano a New York all'epoca, insomma. Ecco, ed è uno spettacolo che è arrivato allora con la nave. Ci sono state poi due momenti, cioè arrivarono, insomma, grandi emozioni. E questa volta? Questa volta ci risiamo. La scenografia è grandissima, insomma, per chi non l'abbia già visto in Italia non sa nemmeno di cosa parlo, però è uno squarcio di Roma, Roma antica, che sta venendo qui con la nave. Mentre parliamo sta percorrendo l'oceano per venire qui e ripresentarsi in pompa magna esattamente a giugno. Il 12, 13 e 14 di giugno saremo al teatro New York City Center a Manhattan, e per fare questo, per celebrare, insomma, questo 50° anniversario di Rugantino, che è una storia straordinaria, una storia totalmente italiana. E quindi, insomma, c'è questo desiderio da parte mio, da parte anche della produzione, di riportare questo capolavoro italiano sulle scene proprio a Broadway, dove il musical è di casa, insomma. Ecco, vorrei farvi sentire un attimo cosa ha detto Fausto Bertinotti qui ai microfoni di America 24 appena qualche settimana fa. Sono stato molto colpito, in particolare da una cosa: lo straordinario livello di professionalità, ma straordinario, veramente un'eccellenza, il massimo della professionalità, anche quando la professionalità è composita, cioè uno fa l'acrobata, fa il mago, fa l'attore, fa il cantante, quindi sono un mix di professionalità che però vengono ridotte a una, la capacità di fare spettacolo. Enrico, ha sentito, era Fausto Bertinotti, sì, che è andato a vedere il suo primo spettacolo a Broadway. Lei quanti ne ha visti di spettacoli a Broadway? Ma io ne ho visti una trentina. Confermo che è un business, è un lavoro serio. Il nostro è legato un po' al talento immediato di qualcuno che è più o meno bravo di altri. Molto spesso non è considerato nemmeno come un lavoro, è una cosa quasi estemporanea, finché dura fa verdura. Però noi non, quando vogliamo, non siamo da meno di nessuno, insomma. Ecco, lo spettacolo sarà qui, come diceva prima Enrico, 12-13 giugno, molto attesa, devo dire, perché è la prima volta da molti anni, tra l'altro biglietti in vendita nyccitycenter.org, Però ho un po' di curiosità. Intanto, Enrico, lei dice che ha visto una trentina di spettacoli a Broadway. Qual è quello che l'ha colpito di più? C'è un'influenza americana nelle sue cose? Sono cresciuto con l'idea dell'America come un po' tutti quanti noi, perché per molti di noi l'America è un esempio, specialmente per professionalità, e questo insomma non lo dico soltanto io, ma sempre pensando che poi alla fine molto spesso la nostra Italia, benché piccola, benché priva di carattere in alcuni casi, è fonte di ispirazione. Shakespeare ci ha scritto moltissime commedie e tragedie in Italia, le storie d'amore nascono tutte in Italia. Questa, tra le tante storie d'amore, è una storia d'amore che nasce in Italia. Rugantino è una storia d'amore con un finale abbastanza particolare, è una Roma ambientata a Roma, una Roma non moderna, ambientata nel 1830, per cui il fascino di questo spettacolo, che ripeto festeggia i suoi 50 anni, è un fascino straordinario, senza tempo. Ecco, lei porta qui la sua troupe, gli attori, tutto il gruppo. Siamo circa 90. 90, ecco, e li porta anche per fargli vedere Broadway, alcuni ragazzi, certo, perché Broadway è per tutti gli attori del mondo una mecca, e quindi io mi sono ripromesso di andare a New York, con grande sacrificio anche da parte della produzione, per incontrare le comunità italiane che hanno magari necessità e desiderio, anche orgoglio, di vedere cose italiane, e di portare questi ragazzi, alcuni sono miei allievi di una scuola che ho a Roma, di portarli a Times Square e vedere come il sistema del business legato al teatro è così florido, è così organizzato, così è fantastico, insomma, non ha eguali in tutto il mondo. Ci sarebbero mille altri approfondimenti, idee da questa costa atlantica che vive sì tempi difficili, ma resta pur sempre la nuova frontiera. Potrete continuare a trovarli su america24.com, seguitemi su Twitter, @MarioPlatero. Ed eccoci alla canzone del giorno. Beh, Enrico è sempre con me in studio. Enrico, scegliamo una canzone. Cosa diamo ai nostri ascoltatori? Credo, Susi, così a naso mi viene in mente una tra le tante canzoni memorabili di Broadway, che parla un po' di tutti gli argomenti che abbiamo già trattato noi, che è quella di West Side Story, canzone straordinaria che credo si chiami America. È bellissima. America. Lots of new housing with more space. Lots of doors slamming in our face. I'll get a terrace apartment. Better get rid of your accent. Life can be bright in America. If you can fight in America. Life is alright in America. If you're all white in America. Da New York è tutto, Mario Platero vi saluta e vi dà appuntamento a domani. Goodbye and get going! America 24.